Brasil. La nostalgia do Brasil. Brasil está ali. L'Italia qui. Convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Sabato 18 alle ore 20 e 25 in telecronaca diretta da Wembley, Inghilterra-Italia, valevole per la qualificazione della Coppa del Mondo. Fantozzi aveva un programma formidabile. Calze, mutande, vestaglione di flanella, tavolinetto di fronte al televisore, frittatona di cipolle per la quale andava pazzo, familiare di peroni gelata, tifo indiavolato e rutto libero. Non so che programmi avete voi, ma io mezzanotte sarò davanti al televisore per questo Italia-Inghilterra che vale già un bel pezzo del nostro mondiale, mondiale che inizia con una salita che sembra un sesto grado un po' più difficile da questa mattina, da quando abbiamo capito che non ci sarà Gigi Buffon, fermato da quella distorsione alla caviglia che doveva essere un infortunio leggero e invece leggero non è. Vi leggo che cosa ha scritto su un popolare social network pochi minuti fa il portiere della nazionale. Buongiorno a tutti, la vita è bellissima, sono ancora in debito con lei, non sarà una partita saltata o un altro mondiale saltato a farmi cambiare idea. E quindi attenzione, perché potremmo anche aver perso Buffon ben più che per questa notte. 800 24 00 24, il mio pronostico è che vedremo una grande Italia, ma non sarà facile, e soprattutto che questa è la partita decisiva del mondiale italiano. Però voglio sentire il vostro e voglio sentire anche come ci è arrivata questo Italia-Inghilterra. I Leoni di Bristol hanno pronosticato la vittoria degli inglesi, posso dirvi la verità, chi se ne frega. 800 24 00 24, noi ci arriviamo così. Abbiamo solo un'arma, che è quella che ci deve accomunare. Diventiamo squadra, una squadra vera, una squadra che anche nelle difficoltà deve tirare fuori il meglio di sé. Io sono convinto che questa squadra ha queste caratteristiche e queste qualità. Tutti pensano di essere forti, tutti pensano di poter vincere le gare. Noi abbiamo preparato la partita per vincerla, anche noi pensiamo di poter essere all'altezza, sappiamo che ci sarà da soffrire, ci sarà da lottare, ma ci siamo preparati per questo, quindi non abbiamo nessun tipo di paure. E allora andiamo nella foresta di Manaus. 800 24 00 24, perché poi voglio sentire il vostro pronostico. Dario Ricci, ciao Dario. Ciao da Manaus, Giovanni. Allora, non c'è Buffon, anche se giallo nel giallo, una mezz'oretta fa Prandelli nella consueta intervista a Rai Sport ha detto si farà di tutto per recuperarlo, anche per questo Italia-Inghilterra, però mi sembra che quanto scritto dallo stesso Buffon 5 minuti fa chiuda un po' ogni discorso. Direi di sì, anche se questa tormentata di Giglia non ha nessuna voglia di finire, e quindi aspetterei poi le formazioni ufficiali. Le parole del capitano sembrano essere definitive e mettono a rischio un altro mondiale di Gigi Buffon, perché ricorderai bene, Giovanni, quello di Sudafrica 2010 durò appena 45 minuti, no? I primi 45 minuti della sfida di Cape Town col Paraguay. Poi allora fu la schiena a tradire il Gigi nazionale, e spazio a quel Marchetti che poi forse pagò, oltre le proprie colpe, gli errori di quella spedizione. Una storia che si ripete, e adesso probabilmente, anzi sicuramente, insomma, nel caso dovesse mancare Buffon, toccherà a Sirigu. Ecco, come sta Sirigu, che mi sembra che abbia avuto qualche problema anche lui a Coverciano? C'è stato un momento in cui addirittura si era pensato a un possibile taglio, forse Mirante era volato in Brasile anche per questo. Come sta Sirigu? No, direi che Sirigu l'ho visto recuperato in questi ultimi giorni, è tornato a svolgere il lavoro completo con la squadra. Devo dire, ecco, rispetto sia all'alternativa Mirante, che comunque appunto era in ballo, sia anche al Marchetti di 4 anni fa, è giocatore che ha maturato a Parigi, nel Paris Saint-Germain, un'esperienza internazionale già importante, già significativa, e che anche nell'amichevole di Londra con l'Irlanda, che ci è costata l'infortunio a Montolivo, e ricordiamo pure che manca De Sciglio, tanto per ricordarli tutti, ha fatto sicuramente una buona prestazione. Quindi, si è capito che cosa si è fatto Buffon? Perché al di là delle notizie sulla distorsione alla caviglia, c'è chi parla anche di un interessamento del ginocchio, c'è anche questa sensazione che sia qualcosa di un po' più grave. Lo ripeto, Prandelli ha detto cerchiamo di recuperarlo ancora per Italia e Inghilterra, Buffon che in questo messaggio dice non sarà una partita saltata o un altro mondiale saltato, a farmi cambiare idea sulla bellezza della vita. Si è capito che cosa si è fatto? In realtà fino in fondo no, sicuramente è capitato qualcosa nella parte chiaramente della rifinitura preclusa alla stampa, sembra che incrociando un passo abbia avuto questa distorsione alla caviglia sinistra, alcuni parlano di interessamento al ginocchio e le stesse parole di Buffon sembrano fare riferimento a un infortunio abbastanza serio. Altri hanno sulla distorsione della caviglia. È chiaro che la parola chiave è stata quella pronunciata ieri da Prandelli nella conferenza stampa, quando, che tra l'altro siamo rimasti tutti sorpresi quando al posto del previsto Buffon si sono trovati di fronte Candreva, no? Perché la conferenza stampa della vigilia per l'allenatore e il capitano. Ma quando ha pronunciato la parola terapie, sta già facendo le terapie, ecco, si è capito che non era un infortunio banale, perché altrimenti sarebbe trattato in modo più rapido e meno intenso. Invece quella parola ha fatto subito scattare l'allarme e poi c'è stata quell'altra frase appena sussurrata dal CT proprio ai colleghi che stavano più vicino, dice dovremmo andare a farci benedire per poter svoltare in questo mondiale. Sì, perché siamo anche un po' sfigati, diciamo la verità, Montolivo, De Sciglio, Buffon, non è questa una spedizione che parte con il piede giusto, anche Balotelli non sta benissimo, anche se la parola pubalgia non si può dire. Dario, ci dai qualche notizia sulle condizioni meteo? Da voi credo sia da poco passata mezzogiorno, c'è questo grande timore del caldo di Manaus, quanto fa caldo? Beh, guarda, ti dico, io sono nella piazza principale di Manaus, proprio di fronte a questo, allo spettacolare teatro dell'opera, capolavoro e tempio della lirica. Devo dire, per quanto riguarda il meteo, sì, fa caldo, fa un caldo umido che tutto sommato non è il peggio che si può trovare da queste parti, c'è un venticello refrigerante soprattutto all'ombra, ma insomma io mi sono aiutato con un succo di maracuja proprio prima del collegamento, spero che gli azzurri facciano altrettanto. Situazione tifo, gli inglesi direi che sono in netto vantaggio, qua tutti gli striscioni proprio sulle colonne del teatro dell'opera, insomma speriamo che la municipalità di Manaus almeno li musi. Però sembrano davvero tanti, Giovanni. Sì, sembrano tanti loro, mi pare di aver capito da quello che leggo, pochi noi. Non so se per pessimismo o semplicemente perché quella in Brasile è evidentemente una trasferta che costa parecchio, o forse c'è anche un po' di scetticismo prima di questo mondiale. Ah, tra l'altro Giovanni, io ho qua vicino un tifoso italiano, Marco Volpato, che è un italiano che vive a Manaus, direi una chicca particolare, gli rubiamo una battuta, lui è ricercatore universitario. Ci crede o no? Perdona, non ho capito. Ci crede o no in questa nazionale? Vediamo, Marco, da italiano di Manaus, vieni da Vicenza, sono ormai un paio d'anni che studi qua all'università, non è il tuo campo, ma ti chiedo un pronostico calcistico. Questa Italia che ti è venuta a trovare in questa tua nuova casa, ci credi o no? Ah, guarda, ho fatto una scommessa ieri con un mio amico inglese. È una scommessa che se vince l'Italia lui mi paga una birra. Quindi spero che l'Italia possa vincere. C'è una buona possibilità. I cittadini di Manaus tifano per l'Italia. Tifano per l'Italia. Beh, questa è una bella notizia, questa è una bella notizia. Direi che se la birra la vincesse Marco farebbe bene sia a lui sia anche al tifoso inglese, che comunque dipinte non è certo digiuno, ecco. No, assolutamente. Dario, ti saluto, però torniamo a collegarci, così nel frattempo proviamo a chiarire anche il giallo intorno alle condizioni di Buffon, quindi se salta solo Italia e Inghilterra o se, come pare di capire, può essere a rischio anche la sua partecipazione al mondiale. A dopo Dario, ciao. Ciao, ciao da Manaus. Tutti convocati. Cici sotto la curva, gli avanti per l'ultimo. 3-2 per la squadra azzurra ai calci di rigore. Alessandro Diamanti. Tratteniamo il fiato. sinistro di Diamanti. Noi dobbiamo essere ottimisti, bisogna essere ottimisti, altro che paura, sono gli inglesi che devono aver paura di noi. 800 24 0024, chiamate per i vostri pronostici, se si vince questa notte si aprono delle strade per il nostro mondiale. Bisogna essere ottimisti, anche se, e lo abbiamo detto, non c'è Gigi Buffon, gioca Sirigu, c'è una nazionale che nelle ultime due settimane ha perso dei pezzi importanti, però la parola d'ordine oggi è ottimismo, che poi se si vince domani magari possiamo anche andare a farci offrire un panino da Mac, tanto paga Rino Gattuso, vero Rino? Ciao a tutti. No, paga tu. Mac, non pago io. No. Ottimista o pessimista per questa sera? No, ottimista, perché penso che la storia dice che facciamo sempre buone prestazioni con Inghilterra, Germania, oggi ci tocca l'Inghilterra, penso che sono molto ottimista. Ti piace questa nazionale che Prandelli ha disegnato, forse in maniera anche un po' difensivista? Oggi leggevo qualcuno che faceva i conti, 4 difensori, 5 centrocampisti difensivi, però credo sicuramente sia una nazionale che non avrà crolli fisici. Non so se hai visto ieri la Spagna, nel secondo tempo praticamente ferma. Andavano gli olandesi andavano molto più forti, ho visto una squadra in salute come l'Olanda, una squadra che secondo tempo non esisteva in campo, e spero che l'Italia, ma non mi sembra una squadra difensivista, per come la vedo io una squadra molto tecnica, giocatori, oggi faccio sempre l'esempio che se c'ero io se ho partito questa nazionale facevo fatica a trovare un posto titolare, perché mi sembra una squadra ben messa in campo e con tanti giocatori tecnici, dove è normale se andiamo a contare, come hai detto te, difensori e centrocampisti, però sono i centrocampisti che riescono a fare gol con continuità e si inseriscono bene, ed è per questo che secondo me le scelte di Prandelli non sono sbagliate. Sì, quanto conta la prima gara di un mondiale? Cioè, è decisiva o no questa notte con l'Inghilterra, anche considerato insomma il gruppo che abbiamo? No, non è decisiva, però è meglio partire bene, partire forte, perché sennò dopo stai a rincorrere, ed è normale. La vittoria, la prima partita è importante vincere, perché anche a livello di morale riesci ad allenarti e ad esprimerti meglio dopo. Senti, tu voti per Mario Balotelli o sei di quelli che dicono che ha consumato un po' tutta la fiducia di Prandelli e questa notte è l'ultima chiamata? No, credo in Mario, credo in Ciro Immobile, credo in Cassano, credo in tutti gli attaccanti. È normale che oggi la partita di mondiale c'è più pressione di una partita di qualificazione quando indossi la maglia azzurra. Sicuramente, come dire, se Prandelli ha scelto Mario ha i suoi buoni motivi, e sicuramente Mario deve solo concentrarsi, secondo me, oggi a scendere in campo e a dare il massimo in questa competizione. Ma è un bene per lui avere dietro Immobile che spinge? Ma io penso che fa sempre bene avere dei giocatori che danno, fammela passare, un po' di pepe al culo, perché sapere che sei da solo e che sei intoccabile non fa bene a un atleta, e penso che un po' di pressione gli fa bene, sicuramente sarà così. Senti, non ti chiedo un pronostico, però per chiudere ti chiedo solo se questo gruppo, se in questo gruppo vedi qualcosa di quello che siete stati voi 8 anni fa nel 2006, a livello caratteriale, non so se a livello tecnico, a livello tattico, sono due squadre diverse. Scusa, penso che a livello tecnico questa squadra ha più qualità di noi, sicuramente a livello caratteriale eravamo più forti noi, però io penso che il segreto è dopo la storia e la mentalità di noi atleti calciatori italiani, dice che bisogna partire bene, bisogna essere concentrati, non sottovalutare nessuno. Secondo me, se quest'Italia passerà al primo turno è difficile incontrare quest'Italia, possiamo battere tutti. Sì, tra l'altro abbiamo visto la Spagna, che noi abbiamo questo spauracchio dei quarti di finale con Spagna o Brasile, insomma vogliamo essere ottimisti, dobbiamo crederci, se superiamo Inghilterra e Uruguay poi davvero si può fare cammino, anche sognando di arrivare al Maracanã, per essere ottimisti, poi ripeto al massimo Pagarino Gattuso e si va tutti a mangiare gratis. Grazie Rino. Grazie a voi, un abbraccio grande Forza Italia. Un abbraccio, alla prossima, ciao. Arrivederci, ciao. Abbiamo lavorato in maniera precisa, non abbiamo lasciato nulla al caso e quindi c'è l'ottimismo, perché sono convinto che vedremo una squadra che sa cosa deve fare in campo, che sa come deve affrontare una squadra come l'Inghilterra, e quindi l'ottimismo deve accompagnarci, non soltanto perché uno nasce ottimista, ma perché ha lavorato. Ottimismo è la parola chiave di oggi. 800 24 00 24. Tra l'altro io la penso diversamente da Gattuso, io credo che alla fine questo sarà il mondiale di Immobile. Oggi per Balotelli è l'ultima chiamata. Saluto Gianni De Biasi, ciao mister. Ciao, saluto a te e ai radioascoltatori. Ottimismo però quella di Buffon, lo diciamo, è una grave perdita questa sera, maggior ragione se poi Buffon dovesse mancare anche nel prosieguo del mondiale. Auguriamoci di no, sinceramente, magari un'assenza momentanea, però credo che per una distorsione, dipende di quale entità, quanto la caviglia si sia gonfiata, quanti legamenti della caviglia abbiano subito questa distorsione. È sempre soggettivo questo aspetto nel recupero dei vari calciatori. Sì, c'è questo messaggio che ha lanciato Buffon: non sarà una partita saltata o un altro mondiale saltato a farmi cambiare idea, la vita resta bellissima. È questo che mette un po' preoccupazione. Ci sono due precedenti, c'è quello dell'Europeo del 2000 quando entrò Toldo e fu comunque la fortuna dell'Italia perché Toldo fece un Europeo straordinario. Poi c'è il mondiale in Sudafrica 2010 con Marchetti dentro dopo i primi 45 minuti. Io credo, mister, che Sirigu dia forse garanzie superiori rispetto a quel Marchetti del 2010. Da questo punto di vista, diciamo, dovremmo stare tranquilli. Sì, anche perché credo che abbia maturato esperienza internazionale importante. È un giocatore che ha buone qualità, esplosività, e questa sera è investito di questa responsabilità. Sicuramente sarà il meglio di sé. Credo che dal punto di vista proprio dei portieri è chiaro che l'assenza del titolare è sempre discretamente fastidiosa per noi che seguiremo la partita, ma principalmente per Prandelli, che sicuramente faceva grande affidamento sull'esperienza di Sì, diciamo la verità, perdiamo un punto di riferimento anche a livello psicologico oltre che tecnico con Buffon. Buffon è sicuramente un giocatore carismatico all'interno del gruppo, è quello che un po' sdrammatizza quando c'è troppa tensione ed è quello che magari richiama quando si rende conto che non c'è l'attenzione sufficiente. Però quello che volevo far rilevare, secondo me, è la grandissima preparazione di Cesare Prandelli a questo evento, a questo esordio di questa sera. Squadra sicuramente scorbutica all'Inghilterra, squadra che ha fisicità, che ha giocatori di buon talento, specialmente dalla metà campo in avanti e dietro giocatori fisici. E credo che Prandelli abbia studiato nei dettagli l'Inghilterra, come gli altri l'avranno fatto con noi, ma credo che noi abbiamo sempre qualcosa in più dal punto di vista del tirare fuori le risorse importanti dal punto di vista tattico, dal punto di vista anche motivazionale, forse proprio nelle difficoltà. Sì, credo però che Prandelli, mister, stia rischiando molto, perché dovesse andare male, io penso domani leggeremo tutti di una nazionale troppo difensiva, con un solo attaccante, con due o tre uomini schierati fuori ruolo, anche nella scelta di allargare Chiellini, di preferire Paletta Bonucci ad esempio. Sono rischi che Prandelli si prende, fa bene se ci crede. Credo a ragion veduta, per un semplicissimo motivo, che ha avuto la possibilità di testare questi ragazzi e di valutarne in questo momento chi sta meglio da tutti i punti di vista, perché non dimentichiamo che tutti sono reduci da campionati sicuramente stressanti e da una stagione che gli ha tolto molto. Adesso ricaricare le batterie in tempi brevi non è così facile, però l'Italia è monitorata in qualsiasi momento e quindi questo credo che giochi a favore di Cesare, di non prendere rischi inutili e di provare a gestire anche le risorse all'interno del gruppo. Sì, e poi davanti c'è Balotelli, oggi all'ultima chiamata, oggi tutti scrivono Balotelli ha esaurito il credito di fiducia illimitata che gli aveva aperto nel 2010 Prandelli, se buca questa sera c'è Immobile. Io su questo ho una mia idea, che questa può essere la nazionale di Immobile più che di Balotelli, o magari anche di tutti e due, però è difficile, è impossibile lasciare fuori un uomo che sta bene, segna a gamba, ha fiducia, convinzione, entusiasmo come Immobile. Voglio sapere anche cosa ne pensate da casa. 800 24 00 24, non so perché, Gianni, mi sembra che Immobile in questo momento abbia quel quid in più. Sì, io parzialmente la penso come te, ho fatto anche un po' un azzardo ricordando l'82 quando un certo Paolino Rossi entrava e cambiava praticamente le sorti di questa partita, venendo da esperienze particolari come quelle di Perugia e della squalifica, e credo che lasciando perdere la squalifica e il discorso di Immobile, è proprio che capire anche i momenti che vivono i calciatori. E credo che in questo momento Immobile veda la porta come nessun altro, il capocannoniere della Serie A nostra, è un giocatore giovanissimo che ha energia, che è sulla cresta dell'onda, e quindi sfruttare anche questo momento. È chiaro che Cesare punta ancora su Balotelli perché vuole cercare di dargli ulteriore fiducia, cercare di recuperarlo in corsa, però come dicevi giustamente tu, non credo che la corda si stia sottigliando, e quindi questa sera o dà una prestazione importante oppure credo che a un certo punto la fiducia andrà scemando. Sì, io credo che abbia 45 minuti, un'ora, poi se dovesse essere un'ora dell'ultimo Balotelli, quello che abbiamo visto abbastanza in questa stagione nella nazionale, ma non solo nella nazionale, anche nel Milan spesso e volentieri, io credo sarà arrivato il momento di Ciro Immobile. Grazie De Biasi. Un saluto a tutti. Grazie. Ciao. Mister, buona partita. 800 24 00 24, vi aspetto per il vostro pronostico, per raccontarci anche come arrivate a questa notte tutta azzurra. Tutti convocati. Fallo su Rivera che è stato mandato a terra da Carri, gli azzurri vengono in avanti, Capello, tiro di Capello, raddoppio, 2-0, tiro di Capello su passaggio di Pulici. Un difensore, non si può decidere da queste immagini, tira fortissimo, il portiere tocca ma la palla va in rete, raddoppio di Capello al settimo minuto del secondo tempo. Dobbiamo essere ottimisti. Mario Balotelli su Twitter una mezz'oretta fa: italiani, qualunque squadra voi tifiate, oggi c'è solo la squadra azzurra, odio, gelosia, disprezzo, mettiamo tutto da parte e stiamo tutti uniti. Poi c'è chi non ci crede, vi faccio sentire la mamma di Prandelli. Adesso ragioniamo per assurdo, se Cesare dovesse portare a casa la Coppa del Mondo, ma no, impossibile. Impossibile. Al limite arrivare al terzo posto, dai. Sarebbe terzo posto, sarebbe già una bella cosa. La signora Aldina Prandelli, Lucio da Roma, 800 24 00 24. Lucio, buon pomeriggio. Sì, buon pomeriggio a tutti quanti voi. Prego. Dunque, allora diceva, a me mi sembra che mi trovo d'accordo un po' con la tattica che usa l'allenatore, e questo è giusto a livello amatoriale, così da giovane giocavo un po' al calcio, perché questo fatto della palla, che ripossessi di palla per un lungo tempo, io passo a te, poi vai indietro verso la difesa, poi alla difesa verso destra, verso sinistra, poi verso sinistra. Sì, il tic-tac italiano. Prego. Non le piace? No, il possesso di palla così non mi piace. Mi piace perché dà la possibilità alla difesa e agli avversari di organizzarsi, E piacerebbe più una partita d'attacco proprio impetuosa. Sì, diciamo, anche se noi, Lucio, storicamente abbiamo fatto bene quando invece abbiamo fatto le partite chiusi dietro e poi via in verticale a colpire in contropiede, ripartenze. Però è vero anche che 2 anni fa all'Europeo l'Italia di Prandelli, giocando così, è arrivata fino alla finale. Pantaleo da Lecce, Pantaleo. Beh, io devo sostenere invece al contrario. il Cesarone Corbandelli è stato anche qui a Lecce come allenatore, è stato ben apprezzato. Ecco, l'unico difetto che ce l'ha anche il dottore, anche in nazionale, non sono un mister, non sono, ma sono soltanto uno, diciamo, sportivo come tutti gli altri, che vedo che la difesa la utilizza molto. Invece, diciamo, vedendo diciamo, il campionato mondiale come si sta sviluppando, diciamo, velocità di palla, e contemporaneamente i grossi devono essere veloci, cioè dalla difesa devono arrivare. Sì, ma il problema nostro è che la difesa ultimamente ha avuto qualche problema. Il problema nostro è che perdiamo con Buffon un altro punto di riferimento, che del terzetto della Juve alla fine resta praticamente solo Barzagli in mezzo, Chiellini si sposta a sinistra, e queste sono incognite importanti. Io credo che sia lì dove questa sera semmai possiamo temere qualcosa, perché davanti e a centrocampo forse come qualità siamo superiori all'Inghilterra. Claudio da Roma, Claudio. Ciao, buonasera, grazie per la convocazione. Ottimista o no? Ottimista, anzi sono contento, diciamo, mi dispiace per Buffon, ma penso che qualche responsabilità sugli ultimi tanti gol che ha preso l'Italia l'abbia anche lui. Anzi, conoscendo Prandelli mi viene quasi da pensare male a questo infortunio un po' strano. Quindi contento per Sirigu, sono d'accordo con te su Immobile al centro dell'attacco e Balotelli a destra. Un'ultima cosa ci tengo a dirla, dopo 20 anni voglio scusarmi con Baggio perché ho rivisto la finale e mi rimaneva nel cuore questo rigore sbagliato, in realtà non era decisivo perché quello decisivo l'ha sbagliato Massaro, quindi anche segnando il Brasile poi dopo il rigore di Baggio aveva il rigore per vincere, quindi l'ho rivista in questi giorni. Quindi ti scusi perché nel 94 a Baggio ne hai dati tutti i colori. Solo quello di Baresi e quello di Baggio, in realtà l'aveva sbagliato anche Massaro poco prima. Vabbè, comunque noi metteremo una firma per arrivare a tirare i calci di rigore della finale a Rio de Janeiro. Poi c'è chi scrive le tue idee, tienitele per te perché sono, insomma, sono tue idee. No, le mie idee sono queste, eh. Noi questa sera faremo una grande partita, questa è la partita chiave del nostro mondiale, un po' come quella di ieri sera è stata, credo, la partita chiave per la Spagna, non so se per l'Olanda, di sicuro abbiamo visto uno spettacolo meraviglioso. Perdón por la manera en la que hemos terminado el partido. Felicitar a Holanda, creo que ha hecho un partido muy serio, ha tenido sus ocasiones y se ha hecho francamente bien con los tres jugadores de arriba. Y nosotros quizá hoy, ya te digo, empezando por mí, pues no hemos tenido el día más propicio para jugar un partido de estas características. L'ultimo che abbiamo sentito è Casillas chiedere scusa a tutti per aver perso la partita. In un modo che oggi i giornali spagnoli hanno sintetizzato così, ridicoli, travolti, vergogna, lezione di calcio. Saluto Filippo Maria Ricci, ciao Filippo. Ciao, come andiamo? Benissimo, posso dirti che non è una sorpresa, o almeno non è del tutto una sorpresa aver visto la Spagna perdere con l'Olanda? No, per me è stata una sorpresa, è comunque 5-1, dai, adesso non ho una... No, 5-1 è tanto, però che, no, che insomma... Sorpresa, che... No, per me sì, io ti dico, l'ho visto qua in allenamento, a me mi sembravano in ottime condizioni, e comunque questa è una partita strana, cioè se entra il 2-0, lo so che se mio nonno aveva 5 palle era un flipper, però se entra il 2-0 parliamo di un'altra partita, insomma, non è, cioè il primo tempo la Spagna non ha, diciamo, non è andata male. Quindi insomma, adesso poi dopo è stata sorpresa, cioè, a me sorprende il crollo psicologico della seconda parte e anche quello fisico, se vogliamo, ma soprattutto quello psicologico, visto che questa è una squadra che ha vinto tutto e ci si aspettava una solidità maggiore. Però no, adesso per me è sorprendente, insomma, poi dopo ognuno è libero di pensare ciò che vuole. Sì, sorprendente, io credo ovviamente 5-1 impronosticabile in maniera assoluta, però credo che questa Spagna sia figlia delle difficoltà del Barcellona delle ultime due stagioni e quindi non potesse certamente essere brillante come nel 2010, nel 2012. In questo forse Del Bosque ha commesso un po' l'errore di Lippi nel 2010, cioè aver poco coraggio in un ricambio, o no? Beh, però allora, sicuramente l'analisi è corretta, nel senso che è chiaro che figlia della crisi del Barça. Però attenzione, io invece penso che Del Bosque qualcosa ha fatto, cioè ha provato con Diego Costa, che andava a cercare il punto di connessione tra le squadre di Madrid e il Barcellona. E lui si è portato il centravanti vero. Questa squadra ha vinto tutto senza centravanti, o con Torres o con Fabregas, che anche Torres è un centravanti atipico, e lui ha fatto di tutto per portare Diego Costa, se l'è giocata su di lui. E poi è chiaro, è difficile in un gruppo così, che ha vinto solo due anni fa, schiantato l'Italia 4-0 così, adesso cosa fai? Tu decidi che, non so, Xavi Hernandez non gioca, o non fai più giocare Xabi Alonso e Piqué e Busquets insieme. Sì, sono scelte difficili, oltre che coraggiose, però, forse scelte impossibili da fare. Cioè, quando si sceglie un gruppo e un gruppo ti ha dato così tanto, devi andare in fondo con lui. Qualcosa ha fatto comunque, se questa idea di Diego Costa, che agli spagnoli già non piaceva, comunque lui ci ha provato. E la difesa, tu mi dici, Piqué e Ramos, questi hanno preso un solo gol in tutto l'europeo, il gol di Di Natale nella prima partita. Adesso che siano crollati così clamorosamente, voglio aspettartelo, insomma, comunque, secondo me, no, guarda, adesso la domanda si sposta, che fa Del Bosque col Cile? Cambia qualcosa? Cambia adesso, sì, sicuramente cambia, però quanto? Cambia Casillas? La mia previsione, no. Te lo chiedo così. Sì, no, non lo cambia Casillas. Se ci fosse stato Valdés, allora c'era dibattito, ma con Reina e De Gea, no. Per me cambia, e i due davanti, Silva e Diego Costa, saltano. Questo per me sono i due. Entrano Fabregas e Pedro, o Pedro e Torres. Però il resto dovrebbe cambiare uno dei due centrali difensivi, che secondo me non lo fa, e dovrebbe togliere uno dei due, diciamo, centrali di centrocampo, e difficilmente lo farà. Potrebbe cambiare Koke con Xavi. Cioè, per me fa fatica a cambiare, perché il gruppo è questo, e adesso decidere che si cambia in corsa è complicato, però questa squadra dà la garanzia. Sì, il gruppo è questo, si va avanti anche a costo di eventualmente andare a fondo, perché quella di mercoledì col Cile è una vera finale, è uno spareggio per la Spagna. Tutti convocati. Malinteso, la palla riconquistata dagli azzurri, porta quasi vuota, gol! Italia in vantaggio, 1-0, e siamo al 25esimo minuto del secondo tempo, e Baggio ha riconquistato un pallone in area di rigore. Noi gli inglesi li abbiamo battuti in finale, nei quarti di finale, nei gironi di qualificazione, quindi non dobbiamo avere paura questa notte. Intanto c'è chi scrive: il mondiale è appena iniziato, sono sicuro che la Spagna arriverà in finale. Maurizio da Verona. Volevo chiedere a Filippo Maria Ricci, corrispondente da Madrid per la Gazzetta dello Sport, invece che cosa pensa dell'Olanda, se l'Olanda va in finale, cioè se è una squadra costruita per andare in finale. Non lo so, penso all'Olanda, che ha un enorme entrenatore, stavo parlando come spagnolo. Sì, Van Gaal, un monumento. Sì, un monumento, perché Van Gaal ha costruito questa partita, l'ha impostata, ha cambiato il modulo, e ha spaccato la Spagna, quindi con un grande allenatore e una grande coesione di gruppo, che è sempre stato un po' il pallone d'Achille dell'Olanda, perché no, non è che la prima, cioè, spesso hanno litigato, e adesso mi sembra che ci sia grande unità, questo mi dicono, e gioventù, magari poca esperienza, però comunque c'hai i tre tenori davanti fortissimi, e unità, un grande allenatore, la Spagna può fare, cioè l'Olanda può fare quello che vuole. Intanto mi sembra che possa evitare il Brasile, che era sì, che era già il primo obiettivo di questo girone, insieme alla qualificazione olandese. Ricordiamo che spesso sono partiti forte nei gironi, non sempre sono arrivati con la stessa intensità. Bisogna vedere se Van Gaal, dall'alto della sua esperienza, sarà stato capace di calibrare al meglio. Per chiudere, l'ultima battuta sul Cile, io non so se l'hai visto ieri sera, non irresistibile. No, l'ho visto un po', non benissimo. Sì, mi sembra che ci sia una parata chiave di Claudio Bravo, può cambiare la partita, un po' come la parata di Cillessen su Silva. No, non benissimo, però prima partita, e il Cile adesso ha un'occasione enorme. Già non perdendo contro la Spagna è più o meno sicuro di andare avanti. Questo io non so se la buttano via questa occasione. Non è uno squadrone, ha degli ottimi elementi, intanto Vidal ha messo giù altri minuti, per cui sono, per me è una squadra da tenere d'occhio, però per me il punto di Cile Spagna è tutto nella Spagna, è la Spagna che decide se andare a casa o se andarsi a giocare il suo ottavo di finale col Brasile. Sì, mercoledì ore 21, autentico spareggio. Grazie Filippo. Ciao a voi, ciao. Ciao Filippo, alla prossima. Francesco da Ravenna. Francesco. Buonasera. Sei prego. Pronto? Prego. Sì, io volevo parlare riguardo al pronostico di questa sera. Io innanzitutto credo che sia in realtà una partita decisiva per il passaggio del turno, nel senso che temo molto di più l'Uruguay rispetto a questa Inghilterra, anche se credo che riusciremo comunque a farcela, sperando che comunque Prandelli abbia il coraggio di fare certe scelte, per cui io concordo con lei, ovvero Immobile non può non giocare. A un'ora secondo me Balotelli questa notte, per convincere Prandelli che è l'uomo giusto anche da solo in questo nuovo modulo. Un'ora, poi secondo me certe gerarchie potranno cambiare. Marco da Roma, Marco. Ah, salve, buonasera. Prego. Senta, io sono diversi anni che mi chiedo come mai Gentile, che ha allenato l'Under 21 e ha avuto sempre risultati ottimi, per cui per quali mani sono passati tutti questi giovani, non si è mai preso in considerazione per fare l'allenatore dell'Italia. Non si riesce a capire, ci sono diversi campi, ma Gentile, che è un monumento, resta lì sempre in attesa. Ma Gentile fu preso in considerazione, ci fu un momento, un paio di notti, un paio di giorni durante le quali Gentile fu il commissario tecnico designato, poi cambiò tutto. Da lì è finito anche il rapporto tra Gentile e la federazione, però è da un ventennio che anche la Federcalcio ha fatto la scelta che fanno in tanti, di andare a prendere il CT sul mercato e non più costruirselo a Coverciano. Secondo me è anche una scelta corretta. Sandro da Milano. Sandro. Pronto, buonasera. Prego. Buonasera, io niente, volevo intervenire sulla formazione della nazionale. Secondo me, per me la formazione è Insigne, Immobile con Verratti al centro, come ci ricordiamo il vecchio Pescara in tema. Sì, magari poi tutti insieme e anche con Pirlo non è semplicissima da gestire. No, con Pirlo no, io indietro mettevo Chiellini al centro come ha sempre giocato. Non lo so sulla fascia perché l'ha messo sulla fascia, ma secondo me nel secondo tempo scenderanno in campo Immobile e Insigne. Speriamo di no, significherebbe che siamo in difficoltà, speriamo di no, poi ripeto, questa sera sarà uno spartiacque, mezzanotte Italia-Inghilterra, prima tra pochi minuti c'è Colombia-Grecia, poi Uruguay-Costa Rica, da guardare anche Uruguay-Costa Rica, poi questa notte c'è anche Costa d'Avorio-Giappone, poi domani noi siamo qui dalle 17 alle 19 per parlarne, per raccogliere anche tutti i vostri commenti. Io intanto ringrazio Giorgio De Luca, autore di questa puntata, Nicola Rossoni in redazione, Peter Bescapè in regia, c'è l'angolo delle scommesse, poi a domani, 17:19. quote e pronostici. Al mondiale brasiliano è la notte di Italia e Inghilterra in campo nel caldo asfissiante di Manaus alle ore 24 italiane per il girone D. Queste le quote sniper, il match d'esordio degli azzurri. L'1, la vittoria dell'Inghilterra, è quotata 3, l'X è a 2,90, il 2 con il successo degli azzurri è quotato invece 2,60. Alle 21 a Fortaleza per il nostro girone scendono in campo invece Uruguay e Costa Rica con i sudamericani favoriti. La quota dell'1 è a 1,42, l'X è a 4,25, il 2 con il successo del Costa Rica è quotato 8. Per il girone C invece in campo a Belo Horizonte tra pochissimo alle ore 18 Colombia e Grecia, l'1 la vittoria dei sudamericani è quotata 1,75, l'X è a 3,30, il 2 invece è quotato 5,25. Chiude il programma di questo sabato mondiale il quarto match in programma alle 3 di notte ora italiana. A Recife scendono in campo Costa d'Avorio e Giappone, l'1 la vittoria della Costa d'Avorio è quotata 2,55, l'X è a 3,10, il 2 invece è quotato 2,85. Questa era l'ultima delle quote SNAI di oggi, a risentirci a domani.